12 e 15 minuti primi, dunque parliamo ancora di grandi opere il cui impatto nefasto attira anche le proteste delle comunità locali, e questa volta invece vediamo quello il caso del Salento, della Marina Leccese, che è divenuto sito di interesse per la realizzazione di un gasdotto, da parte del Trans Adriatic Pipeline, che dovrebbe garantire la fornitura di gas, questo è diciamo lo scopo, dall'Azerbaigian, e favorirne anche la commercializzazione del gas stesso ad altri paesi, si dice per liberare, no, l'Italia dalla dipendenza di questa importante risorsa da altri paesi come Russia, Ucraina, eccetera. Dunque, recentemente c'è stata una decisione del consorzio proprietario del giacimento da cui sarà estratto il gas, si è scelto proprio il corridoio sud, e questo ovviamente ha aperto ancora di più la controversia in Salento. È un'infrastruttura, diciamo, che andrebbe a distruggere un ecosistema invidiabile, anche l'attività ittica. Già c'è stata un'inchiesta per danneggiamento dei fondali marini a seguito di alcuni sondaggi che sono stati già compiuti nei mesi passati. Ovviamente c'è anche un problema di sicurezza, ad esempio, visto che impianti simili in passato hanno dato luogo a incidenti. Allora, noi siamo al telefono con un compagno che si trova lì in zona, e lo salutiamo. Ciao, buongiorno. Ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao. Buongiorno, ciao. Allora, innanzitutto io ti chiederei di raccontarci un po' come state cercando di muovervi dal punto di vista della lotta, ovviamente, per contrastare il progetto del TAP, e magari ci fai anche un po' una panoramica di quello che si muove da un punto di vista un po' più generale contro il TAP. Sì, dunque, diciamo, noi come compagni di Lecce della provincia abbiamo iniziato a muoverci per il momento cercando di fare controinformazione, portando i nostri discorsi, perché diciamo finora, per quanto riguarda questo progetto, ci sono stati sul luogo solo degli studi di impatto ambientali fatti avanti dal consorzio del TAP, già finanziati dall'Unione Europea, perché questo è un progetto molto sponsorizzato dalla Comunità Europea, insomma, no? Perché ci tiene questa strada delle fonti energetiche. Però essendo ci sono solo dei rilievi in mare, quindi abbastanza lontani dal territorio per adesso, anche se comunque l'impatto a livello di scempi si può dire che c'è stato, abbiamo iniziato a muoverci perché ci sembrava, vabbè, aspetta un attimo, scusate, ci sono dei comitati locali che hanno iniziato a muoversi già da 2 anni, che fanno una buona opera di informazione sul problema, però da parte nostra ci sembrava alquanto limitante fermarsi solo al discorso dell'impatto ambientale o della preservazione del territorio, in vista poi di incentivare altre fonti di guadagno per il territorio, quale potrebbe essere il turismo. A noi tutto questo discorso ci sembrava abbastanza limitato, perché sì, è importante criticare l'impatto che queste opere hanno sul territorio dal punto di vista degli scempi che provocano, però noi partiamo anche dal presupposto che queste opere non si possono scindere dalla società dell'economia che ci sovradetermina, no? Quindi abbiamo cercato di portare avanti un nostro discorso per differenziarsi da quello dei comitati, e accanto alla critica di questi progetti che comunque vengono imposti sulla testa di chi vive sui territori senza chiedere cosa ne pensino, si poteva anche riflettere sul fatto che questi progetti e queste opere non si possono scindere dal sistema di sfruttamento che tutti ci coinvolge, quindi nelle nostre situazioni di informazione per adesso cerchiamo di portare avanti anche questo discorso, insomma, che da parte dei comitati secondo noi manca. Questo non per voler creare delle situazioni di separatismi, ma comunque pensiamo che più voci sia interessante avere più voci sul territorio che esprimono, che portano avanti le proprie le proprie questioni, no? Certo. Io per il momento la nostra opera è quella abbastanza, siamo su quello di creare informazione sul territorio e soprattutto stiamo cercando di portare avanti l'idea che riguardo a come costruire un'opposizione, riguardo l'opposizione deve essere per noi, appunto, cerchiamo di portare avanti una critica anche alla delega, al fatto di dover sempre delegare a istituzioni, a partiti politici la gestione delle situazioni. Quindi cerchiamo anche di dire che vorremmo costruire un discorso insieme alla gente, che facendo capire cosa significhi rifiuto della delega, auto-organizzazione, autogestione delle lotte, quindi sganciarsi, essere autonomi da partiti politici, sindacati o altre istituzioni o altri organismi organizzati, perché i comitati ad esempio spesso nelle loro iniziative spesso fanno appello, perché magari loro magari in buona fede ci credono, fanno appello ai politici che potrebbero essere secondo loro sensibili alla questione. Difatti l'anno scorso un sit-in a San Fogo dove dovrebbe approdare il gasdotto, un sit-in che è entrato da questi comitati finiva, insomma, lo spiegheraggio finiva con degli inviti ai politici locali del PD ad interessarsi della questione e a fare proprio le motivazioni del no. Quando poi invece abbiamo visto benissimo cose di questi mesi, che il governo Letta è perfettamente schierato a favore di questa grande opera, quindi aspettative secondo noi vane, che fanno solo perdere del tempo, comunque non permettono di avere una visione critica e reale della situazione. Sì, in effetti è proprio così, perché il governo Letta sembra aver ingranato la marcia in direzione, diciamo, proprio di una inappellabilità al progetto. Dal canto loro le istituzioni locali, insomma, mi sembra che si siano dichiarate, diciamo, contrarie. Ora, il clima delle buone intenzioni, cioè, già di per sé spesso è ingannevole, lo sappiamo. E infatti è stato anche un po' subito smentito da alcuni attivisti che hanno fatto circolare un documento che proverrebbe degli accordi che già sono intercorsi tra, ad esempio, il comune di Vernole e la Trans-Adriatic Pipeline. Insomma, quindi non sono solo sospetti il fatto che non ci si possa appoggiare e utilizzare un po', diciamo, anche le istituzioni locali, ma ci sono manovre abbastanza che sono già uscite allo scoperto. Sì, difatti, per questo noi pensiamo che sia opportuno, insieme alla controinformazione, diciamo così, tra virgolette, proporre anche un metodo di lotta e di auto-organizzazione, che nel nostro caso è quello dell'autogestione e l'indipendenza. E ti stavo dicendo, per il momento abbiamo fatto dei momenti di informazione sia nella zona della marina in cui dovrebbe approdare il gasdotto, sia nei comuni limitrofi che sarebbero interessati dai lavori di trivellazione, perché poi questo gasdotto, una volta sbucato dal mare, dovrebbe allacciarsi alla rete SNAM, alla rete gas della SNAM, no? Quindi da Melendugno raggiungere, si dice per ora Mesagno, poi vabbè, i progetti sono in evoluzione. Oltre a questo, momenti informativi con i soliti strumenti che abbiamo, insomma, manifesti, volantini. Sta pensando anche a comizi improvvisati, organizzati. Ci sono stati anche alcuni momenti di presenza, diciamo, dei sit-in in occasione di alcuni incontri che i progettisti del TAP hanno organizzato con le istituzioni locali e con alcune realtà imprenditoriali salentine. Tra l'altro faccio presente che i progettisti del TAP hanno incontrato queste persone in degli ambienti perfettamente chiusi della polizia. Un incontro che è stato a Lecce, presso una sala comunale, con accesso riservato solo agli addetti ai lavori, e un altro incontro che è stato in un golf club ad Acaia, per dirti, no? In un golf club, no, mamma mia, che è un po' esattamente, insomma, per un'altra locata, non certo per la gente comune, diciamo così. E noi, insomma, l'ingresso era riservato solo agli addetti ai lavori, e quindi noi abbiamo creato dei momenti agli ingressi di queste situazioni, c'erano sempre anche i comitati con volantini, striscioni, per il momento questo, per far sentire insomma che comunque non tutte le voci sono lo stesso, insomma, non sono d'accordo con questo progetto. Sono ancora momenti diciamo informativi, perché anche noi compagni pensiamo comunque questa lotta, abbiamo voluto di farla con la gente, coinvolgendo la gente e progettando insieme alla gente che sente questo fatto come un problema, costruire poi i mezzi idonei a creare una posizione nel momento in cui diciamo, il lavoro dovesse iniziare. Senti, ti volevo dire, si parla anche già di risarcimenti, compensazioni, vabbè, le solite strategie che mettono in moto per cercare di far passare i progetti senza colpo ferire, senza che ci siano chissà quali contrasti. Ma l'opposizione al TAP da parte della gente, tu hai detto miriamo a coinvolgere la gente, insomma che tipo di aria si respira? Tu hai già fatto cenno al fatto che la preoccupazione maggiore è dettata dalle conseguenze per l'attività turistica, che magari non danneggia quanto in TAP, il TAP, insomma, forse se ne potrebbe anche parlare, no? Fatto sta che il coro dei no comunque non sembra essere proprio diciamo minoritario. No, guarda, stando andando in queste zone tra Francoca, che è il lido di Melendugno, i paesi limitrofi, comunque andando a volantinare e quindi parlando con la gente, diciamo che è difficile trovare qualcuno che sia favorevole. La maggior parte sembrerebbe che è contrario. Il problema, accennava anche, ma comunque c'è questo discorso, questa abitudine che qui in Eccellenza è abbastanza diffusa e pratica, anche quello della delega, comunque ai professionisti, professionisti in questo caso, è difficile da scardinare questa mentalità della gente, nel senso c'è, tutti si lamentano, però nel momento in cui manca il passaggio dal fatto di lamentarsi a dire bene cosa posso fare, come posso prendere in mano la mia vita e organizzarmi a porre rimedio a una cosa che sento come un problema. C'è questo fatto che è molto difficile da superare qui, e dal mio punto di vista i comitati non aiutano in questo senso, perché ad esempio quello che hanno fatto finora, una maggior attività è stata raccogliere delle firme contro il gasdotto, no? E però magari non so cosa possono servire queste firme, ne faranno quello che riterranno più opportuno, però comunque anche questo fatto, secondo me, la raccolta firma porta comunque a confermare nella gente tipo l'abitudine alla delega, nel senso che una volta che questa gente ha messo la firma credo di aver fatto tutto quello magari che poteva fare, e quindi si finisce lì il proprio impegno, non viene comunque secondo me stimolato a dire bisogna comunque continuare a vederti, a scendere in strada e parlare di quello che vediamo che sia un problema e capire come possiamo insieme affrontarlo. E nei nostri iscritti, nei nostri volantini, oltre, come dicevo prima, a porre il problema degli scempi ambientali che queste opere comportano, cerchiamo di metterci anche questo, su come la riflessione sul fatto che comunque bisogna cercare di organizzarsi in proprio e prendere in mano la propria vita. E certo, la crisi attuale che isola completamente gli individui non aiuta in questo senso, no? Nel senso non ci sono più tanti posti, o comunque la gente non è abituata, come dicevo prima, a incontrarsi e discutere dei propri problemi. Per me è una bella scommessa questa che stiamo cercando di porre, perché anche da parte di noi compagni magari siamo più abituati a fare delle lotte fra compagni, quindi fra gente più o meno c'è un sentire comune, ci si intende abbastanza bene sulle cose, su come organizzarsi, poi ma invece il passaggio successivo spesso c'è un po' difficile, perché in alcuni casi abbiamo poco abitudine a questo, cioè a fare delle lotte insieme alla gente, quindi creare delle strutture di base insieme alla gente, che non sono strutture perché sono solo compagni e che necessitano di altre forme di confronto e di discussione, che comunque in alcuni casi vanno anche, non dico reinventate, ma magari riscoperte, perché se non sono nel passato bisogna scavare un po' e far venire fuori. Spesso tra compagni anche c'è questo a volte un po' di paura, no, a scegliere questo terreno. Io perlomeno, confrontandomi con altri compagni qui delle spese, a volte lo percepisco questo fatto, nel senso che magari si può di scadere nel cittadinismo, no? Quindi senti, ma per esempio come una scommessa con cui voglio insomma confrontarmi. Beh sì, mi sembra sicuramente l'atteggiamento giusto, come dire, la possibilità per esempio che sia proprio, diciamo, il gruppo di compagni e compagne che si vede con più frequenza, quello con cui ha più contatti, diciamo, che sia proprio questo gruppo a convocare magari un'assemblea, diciamo, improntata ovviamente all'auto-organizzazione sociale, quindi all'autogestione stessa anche della discussione. È remota questa possibilità? Ci sono troppe complicazioni? No, questa è una cosa su cui ci stiamo lavorando, insomma, è una cosa a cui vogliamo arrivare. Non dire delle cose, ma non solo un'assemblea, anche si stava pensando alle forme in quattuale, se trovare un punto che può essere un punto geografico, che può essere comune tutta la zona, in dire un'assemblea lì, oppure fare una serie di assemblee nei vari paesi, perché comunque non so, nei vari paesi è vero che c'è poca, a livello storico c'è poca abitudine alla lotta, però comunque da certi punti di vista i paesi ancora comunque offrono dei momenti, dei punti di aggregazione in cui potersi vedere comunque, no, rispetto a una grande città, una metropoli, insomma. Diciamo che ci stanno i pro e i contro, stiamo cercando di capire, però quella è una cosa su cui ci pensiamo da tempo e ci stiamo lavorando in questo momento. Di quale momento di assemblea convocato da noi. Come anche sarebbe auspicabile anche dare una struttura di base creata da noi, oltre ai comitati già locali che ci sono, no? Che hanno il loro modo di fare. E poi tornando un attimo a quello che accennavi prima sul fatto del turismo e l'impatto ambientale sui finanziamenti che promettono l'ingegnere del TAP riguardo a eventuali danni per la stagione turistica, anche lì non so, guardandosi bene le loro carte sarebbe da pensare che ci fuori anche una cosa, un'arma a doppio taglio, perché loro comunque promettono dei soldi, sì, però questi soldi poi verrebbero dati se una commissione poi accertasse che eventuali danni alla stagione turistica sarebbero dati dal lavoro del TAP oppure no. Quindi possono essere promesse al vento, che magari poi avranno le loro scappatoie per non essere mantenute come di solito fanno i signori, no? Senti, tra l'altro a volte la ricezione è un po' difficoltosa, quindi forse perché si sente un po' di vento. Volevo dirti anche in riferimento al discorso che stavi facendo, le forze politiche, anche quelle più tradizionali, diciamo, invece come la stanno ponendo la questione, che atteggiamento hanno? Sono ambigue come il loro solito, insomma, diciamo così. Vabbè, c'è da dire che l'amministrazione comunale di Melendugno e di altre città limitrofe si sono espresse contro. Palesemente contro Casdotto ci sono solo il Movimento 5 Stelle, per quanto ne so io, alcuni di CL, però anche lì, anche Vendola come presidente della regione, non penso che possa tirarsi indietro per ostacolare questo progetto, insomma. Però non lo so, a me non, sinceramente non interessa molto, nel senso che perché questi signori sono sempre inclini a promettere tutto e contrario di tutto, magari ad avere la maschera buona per ogni momento, magari un momento opportuno, magari dicono di essere contro, ma un momento opportuno poi si schiereranno a favore, magari sventolando qualche falso miglioramento, qualche falsa o qualche piccola modifica al tracciato, no? Come anche in altre occasioni non ho saputo fare, insomma. Eh sì. Peraltro dicevi anche del fatto che sarà convogliato e organizzato anche dalla SNAM il percorso, diciamo, Passerà anche da altri luoghi, quindi ci sarebbe anche da capire altrove, insomma, se si possono mettere insieme, diciamo, no, delle situazioni di contatto con altri luoghi anche fuori dalla provincia di Lecce, anche verso Brindisi, perché forse sarà anche toccate quelle zone, o no? Sì, il gasdotto da Melendugno, dove ci sarà un terminale di ricezione, e poi dovrebbe allacciarsi dovrebbe arrivare a Mesagne per l'allacciamento, perché insomma la SNAM pare, a quanto pare, arriva lì a Mesagne, e poi da lì bisognerebbe insomma fare dei lavori da Melendugno fino a Mesagne nel nord brindisino. Ma potenzialmente questa lotta offre molti appigli anche a voler allargare un po' la prospettiva, nel senso che il gasdotto, secondo me, non è slegato questo progetto anche da altri progetti, come possono essere quelli dei rigassificatori, che sono un progetto in varie zone d'Italia, no? Sì. Secondo me fanno parte della stessa politica strategica, perché quello del campo energetico è un campo strategico per ogni Stato. L'Italia non differisce dagli altri Stati da questo punto di vista. Quindi non solo un allargamento della rotta qui tra il Lecce e il Brindisino per quanto riguarda il TAP, ma nella prospettiva delle politiche statali riguardo all'energia si può allargare, secondo me, ai rigassificatori, che è un altro rigassificatore che in protetta Brindisi mi è stato bocciato, anche in seguito all'Ottri che sono stati lì a posizione, che sono stati nella città brindisina. Ma altri rigassificatori sono progettati in altre zone d'Italia, e noi sappiamo che, ad esempio, i rigassificatori sappiamo che molti sono progettati su spinta dell'ENI, che ha intenzione a portare il gas estratto in Africa. Uno dei paesi in cui viene estratto è il Niger, dove sappiamo benissimo gli scempi che le attività di estrazione hanno prodotto e continuano a produrre, la repressione della manodopera, insomma, di chi si oppone a questa degradazione, e la repressione delle genti di quei luoghi, che sono anche portate avanti anche dall'ENI, dalle varie compagnie petrolifere, e quindi anche dallo Stato italiano, nel senso che lo Stato italiano aiuta l'esercito nigeriano nella repressione che si oppone, per esempio, nel vecchio del Niger all'esproprio del proprio territorio. E sono tante cose che si possono interpretare benissimo dal mio punto di vista. Tanto è vero che il rilancio della lotta al gasdotto TAP qui da noi all'Eccese, dopo, da parte nostra, è venuto fuori anche in un'assemblea all'università questa primavera, dove avevamo organizzato un ciclo di interventi sulla guerra, no? E altre situazioni che stavamo sviluppando, altri discorsi che stavamo avanti qui a Lecce, e quindi riflettendo in un'assemblea sul legame tra controllo delle fonti energetiche e interventi pseudo umanitari in varie zone del mondo, portato avanti dagli eserciti, si è rilanciato anche a livello universitario questa lotta al gasdotto, perché comunque se per esempio in Azerbaigian lo sfruttamento viene mantenuto attraverso le leggi dell'economia, in altre parti del mondo come in Afghanistan, lì recentemente l'egemonia è stata imposta a fronte di bombe, sì. Insomma, dal mio punto di vista si può anche allargare il discorso, no? Certo, bisogna anche tenere conto però che comunque è una lotta parziale, quindi anche non può avere tantissimi aspetti recepiti forse subito da tutte le persone, per cui c'è questo, si va avanti con una lotta per dire no al gasdotto, però tenendo presente, anche facendo emergere nei scritti di volta in volta, magari affrontando un pezzo alla volta, anche tutti gli spazi aspetti che si possono collegare con una situazione universitaria, secondo me. Assolutamente, le possibilità, come hai ben descritto tu, ci sono tutte, anche perché appunto è un problema non solo ovviamente del Salento, ma molto più generale. Senti, Saverio, facciamo che allora, quando diciamo ci si avvicina a diciamo una scadenza di lotta, un'assemblea così, magari ci risentiamo, così facciamo un po' il punto della situazione e vediamo un po' le cose come vanno. Va bene? Sì, va benissimo. Dai, a presto, ciao. Ciao, ciao. E diffondersi spontaneamente a testa alta nelle lotte di ogni giorno per la solidarietà agli imputati e alle imputate della giornata del 15 ottobre. Sosteniamo la cassa di solidarietà per le spese legali.